Riflessioni da Marte. Subito in questi giorni col telescopio quassù da Marte si è intravisto lungo la penisola italica un mezzo motorizzato tutto squadrato con un sex symbol, come lo definisce la Zanicchi, a bordo. Un certo Renzi Matteo che parla tutto aspirato, parla tutto così più che ispirato, ed è saltato subito all'occhio questo mezzo motorizzato poiché è inseguito da vari individui. Non è chiaro se delusi da altri o illusi o anche contusi, che quando si rincorre qualcuno si sa ci scappa sempre qualche contuso. In ogni caso, essendovi per l'appunto un sex symbol a bordo, ognuno dei rincorritori lo voleva per sé. «È dei nostri!» gridava uno. «No, è dei nostri!» replicava un altro. «Non avete capito niente!» reclamava un altro ancora. «Appartiene a noi!» Ma il sex symbol, come tutti i corteggiatori, col viso in alto di chi il mondo sfida... «Col viso in alto di chi il mondo sfida...» proseguiva il suo viaggio. E per il momento il viaggiatore su camper non ha detto cosa farebbe per esempio per la scuola. Se n'è giustamente occupato il ministro in carica, annunciando lavagne multimediali e tablet meridionali. Un fulgido futuro tecnologico attende dunque la scuola italica. Nel frattempo, in questi giorni, si è verificato giusto qualche crollo qui e là in qualche istituto scolastico, e qualcuno, tra l'altro, ancora lamenta la mancanza di carta igienica a scuola. Ma che caspita, come si fa a non capire che di fronte a un futuro digitale la carta igienica è roba sorpassata? E che diamine! Non è tutto oro quel che luccica, direbbe qualcuno, mentre assolutamente d'oro sono ancora gli stipendi di almeno 18 manager pubblici che, nonostante il tetto imposto dal governo, guadagnano tuttora sopra i 294.000 euro all'anno. Così come d'oro sono le note spese faraoniche a base di ostriche e champagne del Consiglio regionale del Lazio. Chissà se loro ce l'hanno la carta igienica, ma... E mentre aleggia nell'aria questo inquietante interrogativo, si apprende dalla relazione dei periti della Costa Concordia che a bordo della nave eroicamente condotta dal comandante Schettino vi erano, scrivono i periti, personale impreparato, che, destinato a incarichi chiave, non conosceva i propri compiti, specie in caso di emergenza. Che strano, non vi pare questa una straordinaria coincidentale metafora italica? Son qualità. Son quelle nuove agitata da più scoglie mezzo all'onde, a mezzo all'onde si confonde e spaventata va solcando in alto mar. Oh.